ho guardato e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se mi guardi ancora non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta che non capisci, non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che se ti guardo diventa rossa, morirei. Ma chissà se lo sa. Ma chissà se lo sa. Forse tu non lo sai. No, tu non lo sai. Così parliamo delle distanze e del cielo e di dove andrà a dormire la luna quando esce il sole. Chissà com'era la terra prima che ci fosse l'amore, sotto quale stella, tra mille anni, se ci sarà una stella, ci si potrà abbracciare. Poi la notte col suo silenzio regolare, quel silenzio che a volte sembra l'amore, mi dà il coraggio di parlare e di dirti tranquillamente, di dirti finalmente che ti amo e che di amarti non smetterò mai. Così adesso lo sai. Così adesso lo sa. Così adesso lo sa.